soffro per amore, se piange questo cuore, non è per gelosia. Se canto una canzone, non cerco la passione, perché il mio amor non so chi sia. Eppur io sento in me un certo non so che, qualcosa che mi leghe a vincere a te. Se soffro per amore, se piange questo cuore, non è per gelosia. Non mi domandare del mio cuore quale mistero, non indagare ciò che nasconde il mio pensiero. Oggi sono triste, ma domani chi lo sa, leggermi nel cuore nessun potrà. Soffro per amore, se piange questo cuore, non è per gelosia. Se canto una canzone, non cerco la passione, perché il mio amor non so chi sia. Eppur io sento in me un certo non so che, qualcosa che mi leghe a vincere a te. Se soffro per amore, se piange questo cuore, non è per gelosia.